Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. L'unico format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. È la puntata numero 398 che vogliamo dedicare alle vittime dei terribili uragani che si sono abbattuti sul Centro America. In particolare alle vittime non umane, agli animali lasciati chiusi nelle case abbandonate, lasciati legati alla catena o in piccole gabbie, condannati a essere travolti e morire nella furia dell'uragano. E poi gli animali degli zoo, dei canili, dei gattili, quelli dei circhi, quelli rinchiusi in piccoli e grandi allevamenti e recinti. Infine ai selvatici, inclusi gli acquatici, che si sono trovati spiaggiati improvvisamente quando le acque del mare si sono ritirate prima di riabbattersi sulla terraferma. Dei lamantini si è parlato molto, ma poi ci sono tutti gli altri, dei quali nessuno parlerà mai. Milioni di vite, piccole, fragili, impaurite, che hanno sofferto come noi, ma a cui è stata prestata infinitamente meno attenzione. Anche loro pagano per i cambiamenti climatici, senza tuttavia godere dei benefici di quello che noi abbiamo chiamato progresso. Via col vento, il vento della steppa, balla con i muri, il piccolo cosacco, vende pacottaglia dell'Armata Rossa, lavora conto terzi per i piccoli boss, proposta indecente, attrazione fatale, le porno casellanti al servizio di frontiera, le liaison dangereux, la scelta di Sophie, gola profonda, ora l'anal non stop. Mix, fronte del porto, profondo rosso, anch'io selvaggio, corazza da potionchi, senza via d'uscita, gioventù bruciata, la maglia del soldato, soldato blu. Qualcuno dice caldo il tè nel deserto, Toto da rabbia, sospiri a Casablanca, Toto le moto, sette pini in sette giorni, Indiana. Assassino sull'Oriente Express, sulla testa, turista per caso, nella tempesta, l'ultimo imperatore, la contessa di Hong Kong, la Cina è vicina, tanto che gas, sentendo che decadenza. Concluso dopo tre mesi l'Expo 2017 tenutosi ad Astana in Kazakistan e dedicato questa volta alle energie del futuro. In questo contesto Aksar Mirzakhmetov, il ministro dell'agricoltura della Repubblica Kazaka, ha firmato un accordo con il WWF per la reintroduzione delle tigri nei territori in cui si erano estinte, per la precisione nella regione dell'Ili-Balkash. Il Kazakistan si sta muovendo lungo il percorso di sviluppo sostenibile, ha dichiarato il ministro. Siamo onorati di essere il primo paese dell'Asia centrale a realizzare un progetto di tale importanza e su scala così grande, che non solo riporterà le tigri selvatiche nelle loro terre d'origine, ma proteggerà anche l'impareggiabile ecosistema dell'Ili-Balkash. Il programma del Kazakistan sulle tigri rientra nell'iniziativa globale TX2 lanciata dal WWF internazionale, finalizzata a raddoppiare il numero di questi grandi felini entro il 2022. Una sfida lanciata durante il summit del 2010 tenutosi a San Pietroburgo. Se avrà successo, il Kazakistan sarà il primo paese al mondo ad aver riportato le tigri selvatiche in un territorio dal quale si erano estinte da quasi mezzo secolo. Il programma di reintroduzione richiede importanti interventi di gestione degli habitat, fra cui anche la riforestazione di una vasta area di foresta ripariale, parte integrante dell'habitat delle tigri. Noi non sappiamo come salutare questa notizia, se essere felici per le tigri o preoccupati per tutto l'impegno che mette la specie umana nell'allevare, sterminare, cacciare, sfruttare, mercificare, eradicare e poi reintrodurre altre specie viventi. Avere la possibilità di reintrodurre può in qualche modo farci prendere più alla leggera l'idea di sterminare? Ed è legittimo disporre delle altre specie viventi a nostra discrezione e piacimento? Io sono un cacciatore, nel bosco in discoteca. Se mi viene un pallore mangio una bella bistecca. Ma un neonato non può scegliere, non potete obbligarlo. Non potete privarlo dell'omogenizzato al cavallo. Noi siamo studenti di sinistra e libertà. Studiamo informatica all'università. Hackeriamo pagine vegane con facilità. Per postarci la grigliata di 2 settimane fa. E da quando va di moda questa moda dei vegani, faccio selfie con costine in bocca un po' come i miei cani. Non toccatemi i miei cani perché amo gli animali, ad eccezione di vitelli, polli, pecore e maiali. Le mucche vanno munte se non scoppia la mammella. Le galline stanno bene se allevate a terra. Vorrei vedere voi vegani in tempo di guerra, quando l'insalata di tofu ti scordavi di averla. Ma in fin dei conti a pranzo e cena voi vegani che mangiate tutta roba di semini, centrifuga, insalate. No, perché sai, lavorando non ho tempo di cose complicate. E poi le proteine alla B12, ma come le integrate? Oh, vegani a cena, preferisco la galera. Potrebbero mangiare mozzarella anche loro per una sera. A noi quando ci invitano mangiamo la verdura, ma se mi danno la pasta vegana la butto nella spazzatura. Anche se lo vorrei tanto, non ti sputo nel panino. Tra chi stermina e chi reintroduce, noi preferiamo chi aiuta, chi accoglie gli animali in difficoltà per prendersene cura e per restituire loro la dignità che sistematicamente gli viene negata. Ci riferiamo ai santuari o rifugi per animali liberati dallo sfruttamento o dalla schiavitù, tra i quali c'è il rifugio della Bubi. Sentiamo il servizio a cura della nostra corrispondente Roberta Marino. Oggi mi trovo vicino alla Sassa, provincia di Pisa, e sono venuta a conoscere il rifugio della Bubi, e qua con me ci sono Frank e Klaus che hanno messo in piedi il rifugio. L'idea del rifugio è nata dalla voglia di essere circondati da animali che avevano bisogno di aiuto, di supporto. Però eravamo un po' scarsi con le nostre forze, quindi conoscendo i posi abbiamo lanciato questa proposta. Usare il nostro terreno per mettere animali che loro avevano continue richieste e non dovevano rifiutare. Un rifugio, per così dire, a conto nostro avevamo già avuto prima, perché avevamo avuto Tania che era malata e a Bubi. Abbiamo dovuto trovare un posto dove poterla tenere senza legarla sempre al nostro camper. La Franca lavorava in un posto dove c'erano maiali. Vedeva che questi maiali andavano ammazzati uno dopo l'altro per essere mangiati. All'epoca noi non eravamo ancora vegani, vivevamo come tutte le altre le persone. C'era un maiale in particolare che aveva una ferita da piccola, e quasi alla fine della stagione, quando tanti maiali erano rimasti in pochi, la Franca ha chiesto al proprietario del posto se lui dava a lei questo maiale per non farlo ammazzare. Non eravamo ancora sulla strada che non bisogna comprare. Abbiamo comprato questo maiale e ovviamente un maiale da solo non può stare, allora abbiamo comprato anche un altro da sempre da quel tipo per salvarlo. E così ha cominciato questa storia qui. 4 capre, 4 maiali, 4 mucche, una 30 di gatti e 2 anziane cani. Le mucche sono arrivate tramite l'ipoasi e nessuno sapeva che erano gravide. Qui in primavera sono nati due vitelli. Queste mucche vengono da un sequestro a Mantova. Per una volta queste mucche, che è una mucca da latte, possono vivere di avere vitelli fino in fondo. E questa è una cosa bellissima, una esperienza nuova per loro, che non hanno mai fatto prima. La storia delle capre ha cominciato che un vicino qui ha chiamato la Franca un pomeriggio e diceva: sulle nostre scale c'è un caprone. La Franca è subito andata lì col guinzaglio e l'ha portato qui. Giulio. Giulio, sì. Era come un cane. Quando io sono arrivata l'ho portato a casa, non lo so che si vede, lui si è legato subito a me. Dopo non potevo allontanarmi perché mi saltava tutti i cancelli piangendo, mi veniva dietro. E se l'è presa con Klaus. Quindi ha visto in Klaus un rivale, lo rincorreva e da dietro lo incornava. E poi si appiccicava addosso piangendo. Era bellissimo. Una capra da sola non si può lasciare. Abbiamo trovato una capra, il Clara, abbiamo portato qui. Poi c'è Camillo, è un caprone che viene dal Cavriglia, giusto? Da Cavriglia, dal zoo di Cavriglia. Il pony che viene da Cavriglia, Paco. Poi ci è arrivata un'altra capra, Ale. Ale Ale era in un allevamento, ha avuto una mastite bruttissima, quindi hanno dovuto operarla, ha perso una mammella, quindi impossibilitata la riproduzione. È stata fortunatamente non mangiata ma ceduta a noi. Maiali incrociati con cinghiali che erano scappati. Una persona le teneva molto male e anche dava poco da mangiare a loro. Ci sono delle, come si dice, peste. Si distruggono tutto, corrono come veloce come il vento, come le capre. Mandano via Paco dal mangiare. Spaventano le mucche. Stavano in un recinto grande, che ne so, 1 metro per 2, fatto con le reti, con i legni, pieno di chiodi. Non mangiavano mai, stavano solo nel fango. E ora si sono ritrovati qui, hanno tirato fuori la loro personalità. Sono distruttivi al massimo, però sono bellissimi. Cioè, lì vedi cosa hai fatto. E poi oggi altri due sono arrivati. Sì, ieri sera. I maiali sono arrivati ieri, hanno 2 mesi, andranno nel recinto dove ci stavano altri 2 maiali che ora non ci sono più. Oh, ma sono minuscoli! Chi arriva? Chi arriva? Quella lassù è la Inna, la sorella di Tobia, che sono i due incrociati col cinghiale di cui Klaus si lamenta del potere distruttivo che hanno. Inna! Vieni a vedere! Inna! Vieni! Questa sera mangiano. No. Ciao, no. Inna! Inna, saluta, dai! Ciao! Inna è andata a fare il bagnetto. Facciamo sentire che sguazza, che sta sguazzando Inna nella pozza. Queste sono quelle di Suzzara. Magda, con la sua figlia Margherita, quella nera. E l'altra è la Rosalia con il suo bimbo Giuseppe. E hanno fatto questa sorpresa che erano incinte. A fine gennaio sono nati questi due piccolini. Paco è rimasto da solo e adesso sembra che sta sempre con loro. E quando le perde di vista le chiama. Di qua e là. Perché li sto vedendo che si incamminano tutti insieme. Sono nati la mucca, il pony e il maiale tutti in fila indiana. Stanno andando non so bene dove. Possono stare tutti insieme, sì. Tranquillamente, molto meglio degli uomini. About dying all the time. secoli i migliori alberghi del mondo hanno provveduto a soddisfare le più svariate esigenze dei loro clienti, che sono sempre stati prevalentemente uomini in giro da soli per affari, dunque lontani dagli affetti e dalla sessualità domestica. Avendo molto a cuore il benessere psicofisico dei suddetti clienti, gli alberghi si erano attrezzati e proponevano, anche se sommessamente, il famoso servizio in camera con coperta, intendendo con questa locuzione la possibilità di ricevere una prostituta in camera. I tempi cambiano, lo sfruttamento e la mercificazione dei corpi continua, anche se negli alberghi non viene più offerta con quella modalità. Una delle notizie più tristi e paradossali che abbiamo scovato a proposito dei modi in cui i clienti di un albergo possono venire consolati per la loro solitudine arriva dal Belgio, dove l'hotel Charleroi Airport, presso il celebre aeroporto che fa da scalo alla compagnia low cost più famosa al mondo, offre la possibilità di affittare, pensate, un pesce rosso per soli 3,50 euro a notte ai clienti che si sentono soli durante il soggiorno. Solo nella tua stanza e vuoi compagnia? Affitta il pesce rosso per 3,50 euro a notte. Questa è la frase che qualche cliente di passaggio ha fotografato e diffuso in rete, creando sbigottimento e indignazione in chi l'ha letta. Sul banco della reception, accanto a questa pubblicità, si trovava la classica boccia sferica in vetro contenente un povero pesce rosso, sicuramente spaesato e atterrito per le voci, le luci, i rumori, la visione deformata e allucinante che il contenitore sferico conferisce all'ambiente circostante. Ci chiediamo come un pesce rosso tenuto prigioniero in un minuscolo contenitore sferico così palesemente fuori contesto nella reception di un hotel possa invogliare a pagare quella cifra, pur misera, per essere portato in camera. Può la vista di un prigioniero consolare o dare benessere? I pesci dovrebbero stare nei laghi, nei fiumi, in ambienti in cui, tra l'altro, è stata la natura stessa a farli arrivare. Quindi bocce di vetro, acquari, ma anche fontane e altre vasche artificiali ricavate nel nulla che contengono pesci a titolo puramente decorativo o collezionistico o comunque per soddisfare i capricci umani, dovrebbero essere, prima ancora che vietate, semplicemente evitate per la loro deprimente somiglianza a prigioni. Bloody swab paradise, your golden stars lick to stick, a world with frogs and magic tricks and floating logs and scissor kicks and lemonade and sweaty sex. Hug me like I gave you checks, you kiss me like the upper crust, tell me things to make me blush. Champagne bottle worn by eyes, a souvenir garage, a melody to make me smile. Not that you've been gone a while, a purple metal eighth place, battling in a trophy case. Silences for little ace, supportive like an ankle brace. Not bloody cotton swabs and lies, stolen checks and empty eyes. You're a county fair in July, Canadian field of wild rye. You kiss me like potted plants, bite me like fire ants, touch me like an old stamp. Olive oil and seven lamps, not stolen cash, I'll pay you back. Bloody paradise attack, it's Sunday at the puppy track, and time to take the long way back. Sweet as the apple of Peru, the inklings of the Eastern Sioux. Not bloody cotton swabs and lies, stolen checks and empty eyes. You'd rather cry the blood flowing from my fingers. That's what I meant to say, blood in my fingertips. I couldn't tell you that any other way. All through the soil, love knows me. You're the blood that I may see you. That I see you, you're the blood me. You're my heart, yo. Yo, you wake me to the smell of butter, sunlight shone through wooden shutters, naked sex and cuffed breast, early morning back to test, pouring rain and rubber suit, cotton socks and rubber boots, a sprint across the parking lot, cause that day we were unprepared, dried out socks along the stairs, sound of rain and draining gutters, lightning seven. In certi ambienti, quella zootecnia che si sta ingegnando per aumentare i profitti allevando intensivamente le chiocciole, sembra già preistoria. Grandi capitali finanziari sembrano infatti concentrarsi attorno a un avveniristico progetto di carne sintetica, una carne cioè che possa evitare ogni forma di sfruttamento animale. Sulla questione, che è assai controversa anche nell'ambiente vegan, sentiamo il servizio a cura della nostra Francesca De Matteis. Rispetto dell'ambiente, salute e benessere animale sono le tre parole magiche su cui le multinazionali della carne stanno investendo per soddisfare consumatori sempre più attenti ed esigenti. Gli allevamenti intensivi inquinano, causano deforestazione selvaggia, producono carne di basso valore e scarsa qualità e spesso denunciano fior fior di investigazioni, gli animali non vengono trattati secondo le norme che disciplinano il cosiddetto benessere animale. Non è un caso che venga sempre più sponsorizzata la carne biologica, proveniente da allevamenti etici e sostenibili dal punto di vista ambientale. Ma è possibile immaginare un mondo costellato di allevamenti biologici che diano da mangiare a più di 7 miliardi di persone, che arriveranno a 9 miliardi nel 2050? Sembra davvero complicato. Dove cercare dunque le proteine del futuro? Nei legumi e nelle verdure? Parrebbe una soluzione logica e da indagare, ma la comunità scientifica e le multinazionali del cibo sono decisamente poco interessate a spingere su questo comparto. La stessa FAO, ad esempio, riconosce le criticità legate agli allevamenti intensivi e da tempo si è fatta portavoce di un'alimentazione del futuro costellata di insetti, coleotteri e affini, considerati importante e nutriente fonte di cibo, ricco di proteine e facilmente reperibile, individuando persino vantaggi dal punto di vista occupazionale derivanti dalla raccolta e dall'allevamento. Ma nemmeno convertire una popolazione di 7 miliardi a mangiare insetti sembra tanto fattibile. Eppure, secondo 2 milionari americani, presto sarà possibile mangiare carne senza uccidere animali grazie alla tecnologia panacea di tutti i mali. Si tratta di Richard Branson, il milionario fondatore del Virgin Group, che ha deciso di investire assieme al fondatore di Microsoft, Bill Gates, nella nascente tecnologia della carne prodotta in laboratorio. Branson e Gates puntano sulla startup Memphis Meat, che sta studiando il modo per produrre carne sintetica partendo da cellule animali. Branson ha dichiarato di essere eccitato all'idea di investire in questo progetto e che così tra 30 anni non ci sarà più bisogno di uccidere alcun animale per mangiare la carne. Entusiasta naturalmente anche la startup americana, secondo cui il mondo adora mangiare carne, ma oggi non è più sostenibile e la carne sintetica, continua la startup, sarebbe la soluzione perfetta per ambiente e animali. L'etica, insomma, rimane così fuori dal piatto e si perde l'ennesima occasione di fare una riflessione di più ampio respiro legato al tema dello sfruttamento, del dominio dell'umano sugli altri animali e sulla natura. I rapporti di gerarchia e di potere resteranno invariati e il senso del limite mai messo in discussione. E non è facile immaginare che la carne in vitro diventerà, alla fine, un'opzione per ricchi. Nella nostra eresia rientra anche il non voler dare soddisfazione né alla zootecnia né a Bill Gates. Per questo abbiamo affidato la nostra rubrica di cucina a uno come il tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il suo gioco di prestigio consiste nel mettere nel cappello una ricetta a base di carne e di estrarne una a base 100% vegetale, cruelty free, senza scomodare i laboratori scientifici e la nanotecnologia. Se siete pronti al gioco di prestigio di oggi, munitevi di carta e penna. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Oggi un piatto che mi riporta alle mie origini, al mio paese. Una ricetta toscana che aggiunge un ingrediente prezioso a quello originale, la vita del manzo, che solitamente viene utilizzato per ricavarne i bocconcini. A voi il peposo all'imprunetina. Gli ingredienti per 4 persone sono 1 kg di farina, mezzo litro di acqua tiepida, foglie di alloro, un mazzetto di salvia, un cucchiaio di salsa di soia, 2 spicchi di aglio, 1 litro di vino rosso, possibilmente Chianti, 100 g di pomodori pelati, 100 g di olive taggiasche, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 fette di pane toscano, sale e ovviamente tanto pepe. Impastate la farina con mezzo litro di acqua calda ed un pizzico di sale. Lavorate bene fino ad ottenere una pasta compatta ed omogenea. Lasciate riposare l'impasto in un recipiente capiente ricoprendo di acqua fresca per un paio di ore. Trascorso il tempo necessario, iniziate ad impastare la pasta lasciandola dentro l'acqua, che assumerà ben presto un colore bianco. Scolate l'acqua filtrando con un colino a rete fitta per recuperare eventuali pezzetti di glutine che potrebbero staccarsi. Continuate a risciacquare la pasta impastando sotto l'acqua corrente, alternando acqua calda e fredda. Lentamente vedrete che l'acqua di risciacquo sarà sempre più limpida. A questo punto il lavaggio è terminato. Mantenete la massa glutinica ottenuta in un recipiente immerso in acqua fresca. A parte, in un tegame, possibilmente di coccio, fate rosolare l'aglio tritato finemente, la salvia e l'alloro a foglie con 2 cucchiai di olio. Aggiungete pomodori pelati e passati e fate cuocere per 5 minuti. Nel frattempo realizzate dei bocconcini grossi come una mandorla dalla massa di glutine. Immergete questi bocconcini nel pomodoro e coprite con il vino rosso. Aggiustate di sale e aggiungete abbondante pepe nero. Fate cuocere a fiamma molto bassa per un'ora e se necessario aggiungete del brodo vegetale. A fine cottura unite le olive e un cucchiaio di cacao amaro e lasciate ancora 10 minuti sul fuoco. Servite ben caldo con fette di pane abbrustolito. Da venerdì 15 a domenica 17 settembre l'ex Veganchio, festa antispecista che per anni si è tenuta a Vimercate in provincia di Monza, si sposta a Milano in una location molto particolare, il Macao, ex borsa del mattatoio cittadino e ora spazio autogestito. Non è un caso, ma una precisa scelta, frutto della volontà di intrecciare percorsi di lotta all'interno di luoghi fortemente simbolici. In questo luogo si facevano affari sulla pelle di chi, poco più indietro, nell'area industriale oggi dismessa, era arrivato sui convogli e aspettava nel terrore il momento di essere smembrato. Il programma è molto fitto, molto ricco, vi consigliamo vivamente di sbirciare il sito internet che è www.festa-antispecista.org, meno inteso come trattino. Si discuterà di attivismo, verranno presentati nuovi libri, ci saranno mostre fotografiche, proiezioni e spettacoli teatrali. Grande novità di quest'anno anche i concerti di musica elettronica. Il cibo, naturalmente vegano, sarà distribuito a prezzi popolari. Organizza l'associazione Oltre la Specie. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e chi vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, cioè Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 399 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.